suo mondo, no, anche con loro che hanno deciso di essere in allora un po' di adorati manda pure Jangan lupa like, share, dan subscribe.